16.05, come di consueto inizia una nuova puntata di Interferenze, la trasmissione a cura del laboratorio Sguardi sui Generis sulle libere frequenze di Radio Blackout. Oggi a tenervi compagnia fino alle 17 ci sono Francesca e Camilla. Quindi un saluto a tutti e a tutte. Iniziamo con ricordarvi i contatti a cui potete scrivere in corso di trasmissione. Quindi per gli sms il numero è 346-667-3263, il telefono fisso è 011-249-5669. E tra poco appunto inizieremo con una breve rassegna dei fatti che sono accaduti questa settimana, se riusciamo anche con qualche diretta appunto che ci testimoni questi fatti che sono accaduti in Italia e anche fuori. Poi in seguito vi presenteremo qualche evento e appuntamento che ci sarà nella prossima settimana. Ora vi lasciamo con un consueto pezzo musicale. In questa puntata abbiamo Alanis Morissette come artista che vi presentiamo. Questa è Everything. I can be an asshole of the grandest kind. I can be hard like it's going out of style. Heart that you've ever seen. E 09, siete sempre sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout, sempre con la trasmissione Interferenza a cura del laboratorio Sguardi sui Generis. Allora iniziamo subito la rassegna stampa di questa settimana. Partiamo da una notizia dell'Uruguay, dove appunto è proprio di questa settimana la notizia che è stato permesso l'aborto, appunto è stato legalizzato l'aborto in questo paese. L'Uruguay è il primo paese del Sud America in cui viene legalizzato l'aborto, e infatti in questo momento ci si aspetta una grande immigrazione a Montevideo da parte di molte donne, di quelle donne che non si possono permettere gli aborti appunto nei paesi, negli stati vicini come Argentina e Brasile, dove l'aborto è ancora illegale, oppure dove l'aborto viene appunto praticato in cliniche private, dove spesso è molto molto costoso e si aggira appunto intorno a cifre di migliaia, diverse migliaia di euro. E infatti sono anche numerosi i casi di decessi, complicazioni in queste strutture, che sono comunque sempre precarie e utilizzano metodi medievali per queste interruzioni di gravidanza. Passiamo poi ad un'altra notizia, sempre di pochi giorni fa, di giovedì scorso, che si riferisce invece ai fatti avvenuti a febbraio dello scorso anno in una caserma del Quadraro, quando una donna che era stata fermata per un furto in un supermercato, una volta uscita dalla caserma, aveva poi denunciato di essere stata violentata da un gruppo di carabinieri e da un vigile urbano. Insomma, dopo, a distanza di quasi 2 anni, questi 3 carabinieri e il vigile rischiano adesso un processo per appunto per violenza sessuale aggravata dall'abuso di poteri e dai doveri inerenti a una funzione pubblica. Insomma, il caso era salito alle cronache appunto per denunciare l'ennesimo caso di violenza che avviene insomma tra le mura di caserme ad opera di uomini in divisa. Subito insomma i funzionari che erano stati accusati avevano cercato di difendersi, tirando in ballo la solita questione del rapporto consenziente, che però era stato appunto smentito dalla donna coinvolta da questa vicenda. Quindi insomma staremo un po' a vedere quello che succede a distanza appunto di diversi mesi dalla vicenda, se questo processo porterà insomma alla verità di quanto insomma affermato dalla donna, e non verrà ancora appunto insabbiato invece dalle versioni poco credibili che i funzionari avevano opposto fin da subito. E ora vi lasciamo con ancora un po' di musica e poi proseguiremo con la nostra rassegna. Questa è sempre Alanis Morissette con End in My Pocket. I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm hopeful. We'll be right back. I'm green, but I'm wise. I'm hard, but I'm friendly, baby. I'm sad, but I'm laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty. E 16, torniamo allora in diretta con Interferenze, proseguiamo con la parte della puntata dedicata alla rassegna stampa. Passiamo ad un episodio avvenuto nella giornata di venerdì a Palermo, quando si è consumato l'ennesimo femminicidio a danno di una ragazza di soli 17 anni che si era frapposta fra la sorella più grande e l'ex fidanzato della sorella, che da settimane la perseguitava dopo che i due si erano lasciati. Appunto, questa ragazza si è messa in mezzo, è stata accoltellata da questo ex fidanzato ed è stata uccisa. Quindi, insomma, l'ennesimo fatto gravissimo che è stato riportato dalle cronache ancora una volta con termini quale delitto passionale, descrivendo il ragazzo come una persona che ha perso la testa in quel momento. Invece, insomma, sappiamo bene che in questi casi c'è sempre purtroppo una razionalità dietro dietro questi fatti. E che, insomma, si tratta di un problema innanzitutto culturale, insomma, risultato di una cultura sessista che vede la donna come un oggetto e che, insomma, l'uomo non può accettare insomma, di essere lasciato. E, insomma, la risposta a tutto questo è stato un corteo che ieri si è mosso per le vie di Palermo per ribadire tutto questo, cioè che si tratta di violenza sulle donne, non di qualcuno che ogni tanto perde la testa, per ribadire come appunto il problema del femminicidio in Italia sia fortissimo e che, insomma, il bollettino purtroppo delle donne uccise quest'anno stia continuando a salire. Quindi, insomma, una risposta forte, immediata, che ha rilanciato anche poi sulla fiaccolata che si terrà domani sera, che è stata organizzata dagli studenti e le studentesse dell'Umberto I di Palermo, appunto i compagni di scuola di questa ragazza uccisa, che appunto partirà domani alle 22 proprio dalla scuola per ricordare Carmela. Quindi, insomma, ci sembrava importante dedicare uno spazio della puntata di oggi, insomma, innanzitutto per ricordare questa ragazza e anche per denunciare appunto l'ennesimo caso di femminicidio, per riportare all'attenzione di tutti e tutte un problema che ancora riguarda in modo forte il nostro paese. So what it goes there for, still love. Questa era Crazy, sempre di Alanis Morissette. Diciamo qualcosa su questa cantante nata nel 1974 a Ottawa, in Canada, da genitori insegnanti. Appunto ha un fratello più grande, uno gemello, e comincia a scrivere e a cantare molto presto. Infatti il suo primo pezzo lo scrive all'età di 9 anni. Vi lasciamo con un altro pezzo musicale, questo è You Learn. Yeah. rieccoci tornate in onda su sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ora continuiamo parlando un po' dell'iniziativa dell'iniziativa e del presidio che si è tenuto all'Aquila giovedì mattina. Ricordiamo appunto che giovedì 18 ottobre all'Aquila c'è stata la prima udienza per il processo a un militare che l'anno scorso violentò una ragazza dell'Aquila che appunto era appena uscita da scuola. Questo militare era in servizio proprio all'Aquila, mandato dopo il terremoto. Giovedì c'è stata questa prima udienza e all'Aquila, in particolare appunto davanti al tribunale, c'è stato un folto presidio, e in tutte le altre città d'Italia ci sono state iniziative di sensibilizzazione e soprattutto di informazione di questa notizia, che sicuramente appunto non è girata come avrebbe dovuto. Come al solito sappiamo che queste notizie, soprattutto che riguardano appunto militari o poliziotti, restano sempre un po' nell'ombra. È giusto, e tocca a noi farle emergere e appunto informare di questi terribili fatti che accadono. Qua a Torino in particolare c'è stato un volantinaggio davanti all'università, e comunque questa giornata si è conclusa poi con lo spostamento dell'udienza definitiva al 19 novembre. Quindi continueremo a seguire questa vicenda, continueremo a informarvi se per quella giornata ci saranno altre iniziative o altri presidi. Chiudiamo adesso la parte dedicata alla rassegna stampa, ci concentriamo su un episodio che è avvenuto esattamente una settimana fa. Domenica scorsa alle OGR di Torino c'era un incontro organizzato da Se non ora quando, con tema la violenza sulle donne, a cui era stato invitato anche il ministro del lavoro Elsa Fornero. C'è stata una contestazione ad opera di alcune studentesse e lavoratrici che insomma si sono recate all'OGR per far presente al ministro come insomma le sue politiche vadano a colpire tutto il mondo del lavoro, e che questo abbia delle ripercussioni innanzitutto sulle donne. Abbiamo detto insomma molte volte come questa crisi non sia neutra al genere, ma vada a colpire appunto in primis il genere femminile, con insomma un ritorno al lavoro domestico, quindi ad un nuovo sfruttamento. Quindi insomma crediamo che la presenza di queste studentesse, di queste lavoratrici in quella giornata fosse sicuramente importante per far presente queste problematiche al ministro del lavoro Fornero, che invece sperava forse appunto nell'ennesima passerella mediatica e quant'altro. Come laboratorio abbiamo però fatto insomma alcune riflessioni su quella giornata, innanzitutto sul ruolo di Se non ora quando, che insomma si è costituito sulla scia dell'iniziativa del 13 febbraio, quando insomma le donne sono state chiamate a rispondere agli scandali sessuali che erano emersi in Italia in quel periodo. Ecco, se inizialmente poteva sembrare che Se non ora quando avesse così una spinta di movimento, sembra sempre più chiaro come invece quelle istanze di Se non ora quando vengano recuperate poi dalla controparte, come si sia costituendo quasi come un partito e come abbia insomma la pretesa di parlare a nome di tutte le donne, rimuovendo qualsiasi differenza di classe e di razza, che invece insomma è fondamentale nel momento in cui si parla di politica, e quindi di prendere una posizione di parte. Quindi insomma la scelta di invitare a un convegno contro la violenza sulle donne a parlare di lavoro il ministro Fornero, crediamo insomma la dica lunga su appunto la conformazione che un gruppo come Se non ora quando sta prendendo. Quindi ecco, in questo senso ben venga la contestazione che c'è stata. Abbiamo però fatto anche alcune riflessioni rispetto alle parole d'ordine che sono state portate all'interno di quella contestazione. Appunto il tema centrale era quello del mondo del lavoro, e di come insomma parlando di violenza sulle donne non si possa rimuovere come una donna che non ha un reddito, insomma, abbia sicuramente delle difficoltà maggiori a potersi allontanare da quella che veniva definita la casa dei violenti, e insomma questo è sicuramente un dato di fatto. Uno slogan che però ci ha lasciato insomma un po' perplesse e che veniva portato nella contestazione recitava: una donna senza lavoro è una donna senza libertà. In questo crediamo insomma che vadano aperti alcuni spazi di problematizzazione, perché crediamo che una battaglia debba essere fatta innanzitutto sul reddito, non tanto sul lavoro, perché appunto lo sfruttamento domestico non si traduca poi in un altro sfruttamento appunto lavorativo, e che quindi appunto la critica alle politiche del ministro del lavoro non possono esimersi anche da una critica più generale a quello che è il mondo del lavoro oggi, e insomma al modello dello sfruttamento capitalistico, che appunto ci sembra insomma che non si possa rivendicare in modo aprioristico un diritto al lavoro, se appunto le forme del lavoro che ci vengono proposte oggi sono quelle che conosciamo tutti. In chiusura, insomma, questa contestazione si è poi conclusa con il ministro che dal palco invitava queste donne ad intervenire, accusandole di di poca democraticità, perché appunto avevano deciso di intervenire dal pubblico interrompendo il suo discorso, e quindi la contestazione si è poi conclusa di fatto con una sorta di dialogo, di invito al dialogo da parte del ministro, che crediamo insomma non possa che essere depotenziante rispetto a quello che era l'intento della contestazione, perché si è trattato poi di fatto di un recupero di immagine da parte della controparte, che è emersa come insomma quella aperta il dialogo, ma insomma anche in questo caso crediamo che una rappresentazione di questo tipo possa essere fatta solo dai media mainstream, che in realtà non possano essere rimosse delle differenze di potere, delle asimmetrie di potere, che quindi rendevano quel dialogo non certo uno spazio neutro e paritario, e che quindi appunto in questi casi il senso della contestazione stia proprio anche nel rifiutare questi spazi che vengono offerti in modo strumentale dalla controparte, che quindi la via insomma del rifiuto di queste mediazioni e quella del conflitto siano vincenti rispetto appunto a questi tentativi di depotenziamento che ovviamente la controparte mette in campo. Queste insomma sono un po' le riflessioni che abbiamo fatto alla luce di questo episodio, che ovviamente ha avuto un grosso risalto mediatico, ma insomma ci sembrava importante fare alcune riflessioni un po' più approfondite, per le quali vi rimandiamo anche al nostro blog, dove insomma potete trovare tutto il pezzo e leggerlo con calma. Vi lasciamo adesso una pausa musicale e poi proseguiamo con la puntata. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's black rain. Afraid.

10:43, adesso, come appunto vi avevamo accennato già all'inizio di questa puntata, siamo in diretta con una compagna di Roma del collettivo Le Ribellule, che ci, appunto, ci parlerà un po' dell'incontro che c'è stato questo giovedì appunto a Roma, un incontro dal titolo Rivolta alle donne, che si era tenuto appunto il giovedì pomeriggio al fronte del porto, sala da tè dell'occupazione porto fluviale. Siamo in diretta con Fabiola, ci senti? Sì, ciao a tutte, ciao Domenica. Allora, volevamo un po' sapere come appunto come era stato questo questa giornata, di cosa avevate parlato. In particolare, appunto, sappiamo che era venuta anche una compagna egiziana, Rasha, che appunto milita in, per questa campagna No Military Trials for Civilians, e volevamo sapere appunto un po' come si era svolto l'incontro. Sì, giovedì è stata una giornata anche particolare, perché la mattina poi siamo dirette sotto al tribunale all'Aquila, che c'era il processo proprio di un militare che ha tentato di uccidere una giovane donna e le ha fatto appunto violenza sessuale. Quindi lei, Rasha, è una compagna che è un'attivista egiziana che appunto sta, come dicevi tu, sta portando, è una delle promotrici di questa campagna che è contro i processi militari verso i civili. È una campagna che sta prendendo molto piede in Egitto, è una campagna assolutamente autonoma, non legata a nessun tipo di organizzazione, è una campagna molto partecipata sia da uomini che da donne, perché diciamo che sì, il punto è che in Egitto la questione della militarizzazione e il ruolo dei militari all'interno del territorio viene vista come questione centrale rispetto appunto alla risoluzione su un problema reale, ovvero che molti militanti ad esempio sono detenuti politici, sono nelle carceri, insomma la repressione in Egitto è stata molto forte, e quindi appunto, come dicevo, il fatto che lei fosse venuta anche la mattina sotto al tribunale ci ha dato anche quello spirito, ci ha dato anche, diciamo, una chiave di lettura importante, ovvero che i militari, no, hanno la stessa divisa ovunque, no, e svolgono lo stesso ruolo, che è quello di repressione da una parte, ma anche di violenza sul corpo delle donne. Lo vediamo nei teatri di guerra, lo vediamo in molte situazioni. Questa è una parte del suo discorso, l'ho legata anche a quello che è successo la mattina, perché mi sembrava anche interessante capire che tipo di partecipazione che ha avuto questa compagna all'interno della tre giorni che è stata fatta a Roma, perché c'è stata la nostra iniziativa, ma anche altre iniziative in cui si è discusso anche in maniera più generale della situazione egiziana e del movimento in Egitto. Rispetto a noi invece, la cosa che noi volevamo porre, un po' il tema centrale che volevamo porre, era sulle strategie di lotta, quelle delle strategie di lotta delle donne, legandoci anche alle lotte che conosciamo. Vabbè, noi riconosciamo le lotte cittadine, chiaramente, nella città di Roma, però per andare anche, fare anche dei passetti un po' più avanti, anche quella che in qualche modo vi coinvolge, ci coinvolge, in Val di Susa, la lotta No Tab e anche l'apporto delle donne. Ci siamo ritrovate spesso a discutere su questo, e poi il fatto che lei fosse in Italia, abbiamo pensato di cogliere questa opportunità per confrontarci con lei. Ed è stato molto bello, perché lei, in realtà, abbiamo fatto un'iniziativa separata al fronte del porto, solo di donne, per cui lei è stata veramente, lei è partita proprio da sé, insomma, no? Come la pratica storica delle donne, partendo proprio dalla sua esperienza di vita, cioè anche dalla provenienza popolare della sua famiglia, veramente ha ripercorso passi della sua vita che servivano anche a descrivere quella che è il clima in Egitto pre prima dei 18 giorni rivoluzionari che si sono vissuti appunto nella primavera, durante la primavera, con la primavera araba, e quanto in realtà fosse anche difficile vivere uno spazio popolare. Poi noi abbiamo fatto anche delle domande, cioè, ovvero come sono le ferie egiziane rispetto a quelle italiane, lei italiane o comunque europee, e lei in effetti diceva non è che ci stanno tutte queste differenze. In qualche modo per noi è stato un incontro importante, perché al di là dei problemi specifici che oggi vive l'Egitto, lei ci ha riportato, ci ha fatto cogliere quanto in realtà le problematiche che noi ci viviamo nelle periferie, le problematiche che ci viviamo in quanto donne, eccetera, siano donne che si confrontano anche col potere costituito, con la militarizzazione dei territori, no? Quanto siano queste dinamiche internazionali, non è che siano proprio nostre in Italia, c'è un tipo di oppressione in Europa, ma poi fuori succede altro, chissà cosa succede, no? Poi è chiaro che la situazione egiziana è una situazione particolare, perché è stata attraversata da un movimento rivoluzionario, e quindi noi anche su questo abbiamo cercato di porre delle domande di come fosse andata avanti la situazione, soprattutto sulla questione di genere, non troppo in merito alle relazioni, cioè di genere nel senso, intendo dire, delle donne, no? Cosa succede alle donne. Lei ha voluto fare un focus, scusate, poi aiuto su questo, perché mi sembra una parte interessante, che lei ha voluto approfondire molto sia all'Aquila, all'assemblea che si è tenuta all'Aquila sotto al tribunale, sia durante l'iniziativa a Roma, ovvero ha aperto un focus sui test di virginità che sono stati fatti alle donne arrestate nel momento in cui i militari hanno preso il potere in Egitto, e sono stati fatti questi test di virginità alle donne. Lei è stata arrestata e volevano fare il test anche a lei, ma lei, visto che è giornalista, si è riuscita a non fare questo test. Dopo poco ha fatto un articolo, e praticamente questo, noi chiedevamo vabbè, ma perché c'è questo test? Mentre questo test serviva a rimandare alla società, a tutti, alla società egiziana ma anche internazionale, quanto essenzialmente queste donne attiviste che si muovevano nella rivoluzione egiziana fossero delle puttane, è questo il senso, no? Perché la donna invece deve essere una donna pura, no? Non vergine, eccetera, rimandare, no? Un po' al senso del ruolo della donna tradizionale. Quindi quello che lei ci sottolineava era quanto il potere costituito, quello militare, quello dello Stato, anche quello dei fratelli musulmani che oggi hanno potere in Egitto, sia rimandare le donne a casa, cioè far sì che quei giorni di piazza che lei descriveva come forte libertà di tutte, di poter fare agire una dinamica individuale di spazio, cioè molto liberatoria, molto di sentirsi appunto di costruire il proprio mondo, no? Quanto invece questo potere in realtà fosse per ristabilire il ruolo della donna, quindi di nuovo velo, quindi di nuovo, che vabbè, chiaramente può essere uno spazio di repressione o meno, non sto dicendo questo, però quello che succede è che molte donne che magari non avevano il velo si sono rimesse il velo, molte donne che stavano tutti i giorni nelle piazze e nelle strade, perché diventa un luogo di incontro per le donne che non escono tradizionalmente, sono ritornate a casa, quante le donne uscissero a fare la manifestazione venivano aggredite da uomini pagati dallo Stato, insomma questo è un po' lo spazio di repressione rispetto alle donne che si sta agendo ancora oggi chiaramente in Egitto, e poi il movimento è largo, ci succedono tante cose, però questo era un po' quello che volevo riportare per segnalare un po' il tipo di invece di battaglia anche per le libertà individuali che stanno portando avanti i compagni, le compagne, rispetto a un territorio che è super militarizzato e c'è un potere veramente militare, un potere militare che stupra, che uccide, che appunto ti fa tornare a casa, che se sei una donna sta fuori alle 3, lei ci raccontava questi episodi, che donne in giro alle 3 di notte ti vengono a dire, ti vengono a insultare, che fai in giro, puttana, tornatene a casa, insomma una situazione pesante, per cui il ruolo della donna si sa che non è nelle scrave, insomma, questo è un po' in generale. Grazie mille Fabiola, noi ti ringraziamo molto per questo. Ho fatto un monologo. No, ma secondo noi è molto interessante, soprattutto appunto ci ritroviamo in questa appunto analisi che appunto riguarda diverse situazioni, diversi paesi, ma che poi comunque appunto in cui possiamo ritrovare le stesse problematiche, le stesse violenze che partono dagli stessi personaggi, dallo Stato piuttosto che dalle forze dell'ordine, quindi ci troviamo perfettamente d'accordo con te. E appunto ti ringraziamo. No, sì, per me questa comunque è una riflessione aperta, cioè quello che lei ci ha lasciato è dirsi, è chiaro che c'è bisogno di aprire anche una riflessione, ma anche un modo di una relazione, una rete anche a livello internazionale con le donne in lotta. Sì. Questa mi sembra una cosa importante su cui ragionare, penso che anche noi insomma dobbiamo tenere in considerazione questi spazi che sembrano così lontani da noi, ma che in realtà invece sì, sicuramente, appunto, diciamo che le lotte sono poi il filo rosso che ci collegano tutte quante. Certo. E allora, grazie mille, speriamo di risentirti presto. E di incontrarci nelle lotte. Esatto, grazie mille. Un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Ciao. We'll be right back. 16:58 ci avviamo alla chiusura di questa puntata di Interferenze. Vorremmo continuare ancora a parlare di lotte dopo quelle dell'Egitto di cui ci ha parlato poco fa Fabio. La vogliamo spostarci in Grecia, dove la settimana scorsa, insomma, tantissime persone ancora sono tornate in piazza, e dove anche un uomo ha perso la vita durante gli scontri a causa dell'uso spropositato di gas lacrimogeni che veniva fatto in piazza Sintagma. Quindi vorremmo fare una lettura che parla proprio della Grecia, che è un pezzo che è stato scritto da Savas Metoidikis, un uomo che si è ucciso l'anno scorso, che aveva lasciato appunto queste parole. Quindi iniziamo con questa lettura. Violenza è lavorare per 40 anni per delle briciole e chiedersi se si riuscirà a smettere. Violenza sono i titoli finanziari, i fondi assicurativi saccheggiati, la truffa in borsa. Violenza è essere costretti a stipulare un mutuo per una casa che si finisce per pagare come se, se fosse fatta d'oro. Violenza è il diritto del tuo capo di licenziare in qualsiasi momento voglia farlo. Violenza è la disoccupazione, la precarietà, sono i 700 euro al mese con o senza contributi previdenziali. Violenza sono gli incidenti sul lavoro, perché il padrone riduce i costi di gestione a scapito della sicurezza dei lavoratori. Violenza è prendere psicofarmici e vitamine per far fronte agli orari di lavoro. Violenza è essere una donna migrante e vivere con la paura di essere cacciata dal paese in qualsiasi momento e vivere in una costante insicurezza. Violenza è l'essere casalinga, lavoratrice e madre allo stesso tempo. Violenza è quando ti prendono per il culo al lavoro dicendo «dannazione, sorridi» e chiedere troppo. Quello che abbiamo vissuto io lo chiamo rivolta. È proprio come ogni rivolta appare come una prova generale della guerra civile, ma puzza di fumo, gas, lacrimogeni e sangue. Non può essere facilmente sfruttata o controllata. Accende le coscienze, si rivela e polarizza le contraddizioni e promette almeno momenti di condivisione e di solidarietà e traccia percorsi verso l'emancipazione sociale. Signore e signori, benvenuti alle metropoli del caos. Installate porte sicure e sistemi di allarme alle vostre case. Accendete il televisore e godetevi lo spettacolo. La prossima rivolta sarà ancora più agguerrita, mentre il marciume di questa società si approfondisce. Oppure potete prendere le strade al fianco dei vostri figli. Potete scioperare, potete osare di rivendicare la vita che vi stanno derubando. Potete ricordarvi che una volta eravate giovani e volevate cambiare il mondo. Thank you. 17.03, rubiamo qualche minuto ad Animal Radio in chiusura per ricordare alcuni appuntamenti. Partiamo da uno che lanciamo come laboratorio Sguardi sui Generis, che sarà questo giovedì, un appuntamento per discutere insieme di cosa sia il corpo, una domanda all'apparenza banale ma che in realtà apre molti spazi di riflessione, con cui vorremmo inaugurare un percorso di riflessione che parta da foto, video, installazione, seminari, performance e quant'altro. Questo appunto sarà il primo appuntamento per discuterne insieme, quindi vi invitiamo tutti e tutte a partecipare. Ci troviamo questo giovedì 25 ottobre dalle 18 allo spazio Unilotta di Palazzo Nuovo. E invece un altro appuntamento riguarda il fatto accaduto ieri, cioè che la nave Estelle che viaggiava verso Gaza con a bordo diversi attivisti che appunto contavano di arrivare a Gaza proprio nella giornata di ieri con diversi aiuti per la popolazione palestinese, è stata fermata dalle navi israeliane a 50 miglia appunto dalle coste palestinesi, e tutti gli attivisti presenti sulle stelle sono stati arrestati e portati nelle prigioni israeliane. Alcuni di loro sono già stati messi su voli internazionali per riportarli a casa, quello che è successo per esempio a un attivista italiano che era su questa Freedom Flottiglia. E quindi contro l'assedio e l'occupazione appunto del territorio palestinese, contro questa infame decisione del governo israeliano di fermare questa nave carica di aiuti per Gaza, ci sarà un presidio questo martedì alle 17 in Piazza Castello, quindi siete tutti e tutte invitate a partecipare. Adesso vi salutiamo davvero, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, come sempre la domenica dalle 16 alle 17 con Interferenze sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vi lasciamo in compagnia della nostra sigla e poi ad Animal Radio. Buon ascolto.